Buonasera a tutte e tutti, grazie per essere venuti alla seconda serata di Controattacco. Io chiedo scusa preventivamente perché non sono in forma smagliante e farò del mio. In origine questa serata era stata pensata come una sorta di chiasmo, perché a presentare i due libri dovevamo essere in due, io e Tommaso De Lorenzis, vale a dire i direttori delle due collane che hanno pubblicato i due libri. Il chiasmo è dovuto al fatto che io, che sono il direttore della collana in cui è uscito il libro di Selene, ho da poco presentato qui a Bologna il libro di Girolamo. Tommaso, che è il direttore della collana in cui è uscito il libro di Girolamo, ha da poco presentato a Roma il libro di Selene. Quindi sarebbe stato interessante appunto fare questo chiasmo. Purtroppo a Milano c'è un evento concomitante, Book City, e quindi Tommaso De Lorenzis non ha potuto essere qui. Quindi c'è una sedia in più, appunto, è un convitato di pietra, la teniamo, è una sorta di spettro e magari ogni tanto lo interpelleremo, cioè diremo noi delle cose che avrebbe detto lui. Ecco. Allora, perché la presentazione comparata di due libri che in apparenza parlano di due cose molto diverse e che sono anche molto diversi, perché uno si può definire un romanzo per quanto appunto pieno di peculiarità, le cose innominabili di Girolamo, mentre l'altro esce in una collana di narrazioni ibride ed è quello che noi chiamiamo un oggetto narrativo non identificato, che ibrida appunto fiction e non fiction nelle maniere più inattese possibili. E perché in realtà questi due libri dialogano a distanza tra loro, e più li si interroga e più si interroga una vicenda, più vengono fuori delle risonanze o consonanze, e si possono percepire dei punti di corda gettati dall'uno all'altro. E parto dalle cose più, diciamo, evenemenziali, diciamo le cose più dei trivia, diciamo. Entrambi gli autori, Selene e Girolamo, sono di Taranto. Entrambi non vivono più a Taranto da svariati anni. Entrambi hanno ovviamente un rapporto con il mostro, cioè la fabbrica con la F maiuscola, quella che prima era Italsider, Ilva, ArcelorMittal, e che in questi giorni sta monopolizzando l'attenzione delle cronache. Entrambi sono molto critici rispetto alla narrazione dominante sulla fabbrica che viene pompata in queste settimane tutti i giorni. È una narrazione tossica, che non è tossica solo in metafora, ma in questo caso è proprio tossica nei suoi esiti materiali. I libri sono entrambi ambientati in Puglia. Una volta, adesso questa espressione suona leggermente desueta, però una volta, per indicare quella regione d'Italia, si usava il plurale, si diceva le Puglie, ed effettivamente era più precisa come espressione, perché appunto la Puglia, il tacco d'Italia, in realtà contiene tanti mondi, territori che ovviamente hanno molto in comune tra loro, ma al tempo stesso sono molto diversi, vengono da tradizioni diverse, territori che hanno vocazioni attuate o potenziali diverse, e ad esempio la Puglia ionica è alquanto differente dal Salento o dal Gargano, dal Capitanata, eccetera. Quindi in realtà si svolgono in due Puglie diverse, perché il libro di Selene si svolge a Bitonto e il libro di Giro si svolge a Taranto e dintorni. Il libro di Selene instaura un dialogo a distanza con un decennio passato, che sono gli anni 70, perché Selene va a recuperare uno di quelli che di solito si chiamano cold case, cioè un caso di cronaca vecchio, che ormai è coperto dalla polvere d'archivio e che però conserva una carica anche di inspiegabile, no, di un qualcosa di non risolto, ovviamente, ed è una storia che all'epoca, nei primi anni 70, appunto, divenne una di quelle di cui si parla per settimane, mesi, anni, come di recente abbiamo avuto, non so, a Vetrana, prima avevamo avuto Cogne, abbiamo ogni tanto dei super casi di cronaca. All'epoca non c'era Vespa a fare il plastico, ma c'erano in buona sostanza dei suoi omologhi con le modalità e le tecnologie dell'epoca. Si tratta di alcuni bambini abitanti di un quartiere di Bitonto piuttosto malfamato, perché storicamente abitato da una comunità molto povera di origine nomade, di origine, si dire, zingara, queste parole, no? Che zingara è considerato una manifestazione di antiziganismo, è considerato un dispregiativo. Nomade però non è più sensato usarlo, perché stiamo parlando di comunità stanziali. Ogni volta, no, si cade in un inghippo terminologico, però appunto una comunità che ha quell'origine lì e che è rimasta confinata in una sacca di povertà. All'interno di questa comunità si registrano delle morti per annegamento di bambini, per questo poi si chiama Pozzi il libro. Questo diventa una causa di quelle nazionali, i giornalisti di varie testate nazionali si precipitano a Bitonto a varie ondate, la RAI dedica alcune trasmissioni di approfondimento che oggi sono tra l'altro disponibili in rete e si possono vedere, e si affermano in realtà più narrazioni tossiche a seconda di quali spiegazioni vengono date e quali responsabili vengono indicati per queste morti di bambini, per questi infanticidi, ammesso che lo siano, perché poi in realtà cioè la cosa è molto più complessa e le morti sono diverse tra loro, eccetera. Fatto sta che vari responsabili vengono additati, sospettati, mostrificati a mezzo stampa, a varie riprese, membri delle famiglie di questi bambini, membri della comunità, marginali all'interno della comunità stessa, quindi marginali all'interno di una comunità emarginata, e poi all'improvviso di questa storia non si parla più. Oblio totale, per molti anni. Tanto che L'unico riverbero di questa storia, di cui se ne era a conoscenza fino a quando non ci si è rimbattuta, è rappresentato da un film di culto di Lucio Fulci, che viene evocato sin dalla copertina del libro, Non si sevizia un paperino, un thriller all'italiana di quelli dell'epoca, che fa parte dell'ondata di film in cui, per capirci, ci sono Quattro mosche di velluto grigio, di Dario Argento, il Dario Argento pre-Profondo Rosso, insomma c'è un momento all'inizio degli anni 70 dove il thriller all'italiana, il giovane Argento, Fulci, che è già un veterano del Bava, eccetera, buttano fuori dei film che all'epoca sono considerati di sottogenere, ma che poi diventano di culto nel corso degli anni. Non si sevizia un paperino è ispirato a questo caso di cronaca di Bitonto, lo reinterpreta in maniera piuttosto libera eppure esatta, al tempo stesso ha un cast di tutto rispetto, perché c'è Thomas Millian, premonnezza, perché Thomas Millian è stato un attore che toccava varie corde prima di essere purtroppo congelato nella macchietta appunto del commissario Giraldi. E c'è Florinda Volkan, c'è Barbara Boucher, ci sono svariati caratteristi che vediamo in tutto il cinema dell'epoca, mestieranti di pregio, e il film ancora oggi si guarda con appunto coinvolgimento, apprensione, non è invecchiato particolarmente. E come si diceva prima, di questa storia rimaneva solo il fatto che Fulci si fosse ispirato a essa. Selene poi racconta che lei ha fatto la tesi, no, anche su Fulci, parlando anche di questo film, e però poi non aveva seguito il link che portava Bitonto, solo di recente comincia a interessarsi a questa storia perché ci trova qualcosa di importante. Selene nel suo libro precedente ha smontato i meccanismi della narrazione tossica della cronaca nera, spiegando perché è intossicante per chi la fa, per chi la legge, anche per chi non ne finisce, perché comunque diffonde delle tossine continuamente nella società che poi influenzano la percezione di tutti noi, l'immaginario di tutti noi. E quel libro si chiamava Tabloid Inferno e di fatto con Pozzi praticamente mette in piedi un case study, uno studio di caso, come se appunto mettesse la lente di ingrandimento su appunto una faccia del cubo che era Tabloid Inferno e ci scoprisse sopra a questa superficie zigrinature inaspettate, solchi, all'interno di questi solchi, ingrandendo ulteriormente, trova altre cose. Che chiave usa? Però si sporge pericolosamente dal parapetto guardando il romanzo, senza mai però buttarcisi, perché non è un romanzo, ma usa un sacco di tecniche letterarie prese dal romanzo. Ad esempio, il personaggio principale, quello che in fondo parla, attraverso il cui sguardo mutevole noi leggiamo la storia, è un personaggio immaginario e addirittura è un personaggio soprannaturale che si chiama Esselio e in pratica incarna poi in varie forme, perché diventa animale, diventa varie persone, assume addirittura le sembianze di Thomas Milliam all'inizio del libro, è uomo e donna, eccetera, e creature mitologiche, e però di fatto incarna in questi vari modi tutti gli elementi tossici della narrazione mostrificante della cronaca nera. Quindi è una chiave particolare che stiamo esplorando in diversi autori negli ultimi anni, l'utilizzo del soprannaturale, l'ho fatto io, l'ha fatto Alberto Prunetti che è in sala, l'abbiamo fatto in diversi, l'uso del soprannaturale per fare inchiesta, che può sembrare una contraddizione in termini, uno simbolo, due cose inconciliabili, ma in realtà schiude degli scenari, sempre distinguendo questo piano soprannaturale da quello dell'inchiesta vera e propria. E lo fa Selene con i titoli di coda, a differenza di altri oggetti narrativi non identificati, qua si vedrà subito che i titoli di coda seguono ciascun capitolo, non sono tutti alla fine, il che introduce un passo diverso, un ritmo diverso, un fraseggio diverso del discorso che deve discernere tra fiction e non fiction. Il romanzo di Girolamo, che torna al romanzo dopo svariati anni, praticamente per tutti gli anni 10 fino adesso aveva pubblicato solo saggistica, mentre negli anni 0 aveva pubblicato 4 romanzi: Tre uomini paradossali, Scirocco, Con la faccia di cera e La visione del cieco. Dove c'era il soprannaturale? E con la faccia di cera c'era il soprannaturale, perché era una ghost story e anche lì serviva per fare inchieste, e anche lì c'era un mostro, una fabbrica mostro, in quel caso di chimica, non siderurgica. Okay? E, dopodiché, non perché non stesse più scrivendo fiction, perché in realtà c'è almeno un paio di romanzi nel cassetto, ma però per le varie vicissitudini editoriali aveva pubblicato solo saggistica. Ricordo La scuola di tutti, uscito per Minimum Fax, libro fondamentale ancora oggi per il dibattito sulla scuola, è stato scritto ai tempi della lotta contro la riforma Gelmini, ma è attualissimo perché le dinamiche che va a smontare, a contrastare sono in fondo sempre le stesse, le retoriche anti-scuola sono le stesse. Poi aveva pubblicato Filosofia per Ponte alle Grazie, di cui ricordo una fantastica presentazione qui a Bologna con un istrionico Stefano Bonaga, che a un certo punto spiegò scientificamente perché Lacan portava sfiga, dicendo che tutti quelli che hanno avuto a che fare direttamente con Lacan hanno fatto morti violente, fece una cosa eccezionale, insomma, per presentare il suo libro, che cioè, non è così cazzeggione, però conteneva dei ganci che rendevano possibile anche un fatto da un lacaniano, excursus di questo tipo. Oggi appunto ritorna al romanzo, lo fa, lo fa con Rizzoli, sotto la, diciamo, con la cura di Tommaso De Lorenzi, che è un nostro vecchio complice di Scorribande editoriale, compagno di strada, e che non è qui, non è su questa sedia. Si svolge a Taranto, Le cose innominabili, e ci mostra una Taranto il cui spazio-tempo in fondo è continuamente curvato dalla presenza della fabbrica, che non è mai nominata con i suoi nomi aziendali, con i suoi appunto marchi, con la sua proprietà, è sempre la fabbrica, tanto tutti sappiamo benissimo di quale fabbrica si tratti. Le esistenze che vengono mostrate, sviscerate, i percorsi che si incrociano, convergono, divergono, le storie che anche apparentemente non hanno a che fare direttamente con la fabbrica, sono tutte influenzate da essa, dal suo percolato, dai suoi sversamenti, dal suo affiorare di catrame, dal gas di provenienza, virgolette, misteriosa all'interno di alcune scuole, dalle esalazioni, dalla polvere rossa che va a ricoprire le case, i panni stesi, le lapidi del cimitero del Rione Tamburi, eccetera. E una sorta, la narrazione tossica sull'Ilva è una sorta di rovesciamento paradossale della narrazione tossica sulla cronaca nera, che è stata così abilmente esplorata in due libri da Selene. Per una criminologa, che Selene tale è giornalista e criminologa, accreditata, ha fatto un master in criminologia, è proprio davvero una criminologa. Non l'ho mai ritirata. Però è davvero una criminologa. Una narrazione tossica come quella su Ital Sider, Ilva ArcelorMittal, dovrebbe, insomma, cioè, lei dovrebbe essere abbastanza pungolata, no, da quello che sto per dire. Se nella narrazione tossica della cronaca nera si cerca ossessivamente il mostro, si amplifica il crimine, si a volte beatifica la vittima, i poveri angioletti, i bambini uccisi dal mostro, eccetera, e questo meccanismo poi porta a una dipendenza, a rilasciare dopamine e cose del genere, per cui devi sempre consumare, no? Deve continuamente esserci il colpo di scena vero o presunto, che comunque deve sempre puntare a una mostrificazione. Nel caso dell'Ilva è l'esatto opposto: la narrazione tossica deve occultare il fatto che c'è un killer, ci sono dei killer, deve occultare l'esistenza del mostro che c'è, e non è solo metaforico, perché effettivamente è un mostro, perché è non solo un mostro ma mostrifica, nel senso che i processi che provoca sugli organismi viventi sono teratogeni. Teratos in greco vuol dire mostro. Quando si dice che appunto è in corso un processo patologico teratogeno, si sta appunto dicendo che nel corpo si stanno generando dei mostri, generando e diffondendo dei mostri. Eppure si fa di tutto perché di questo killer non si parli, ok? Viene sostituita ogni responsabilità soggettiva da un corso delle cose oggettivo. Non si può fermare lo sviluppo, la città non può fare a meno della fabbrica, i posti di lavoro e tutte queste cose qui, e le vittime, i bambini, ho appena visto l'agghiacciante documentario Ilva a denti stretti, che è andato in corsa, è andato in onda su Rai 2 la settimana scorsa, e attualmente si può vedere su Rai Play, appunto, che è proprio sui bambini. I bambini uccisi dall'Ilva, ma guarda caso quelli non sono poveri angioletti nella narrazione dominante, non vengono beatificati, le loro morti vengono rimosse, no? E sono immolati all'altare dello sviluppo, di questo sviluppo di cui non si può fare a meno a Taranto, in Italia e quant'altro. Quindi le due narrazioni tossiche di cui parlo in quel libro sono l'una il rovescio dell'altra, e la cosa mi sembra molto stimolante per iniziare una discussione. Quindi direi di cominciare dando la parola, andiamo dalla più giovane al più anziano, E quindi parla per prima Selene, e intanto grazie. Una scrittrice che è un punto di riferimento per la produzione fantastica, che è Shirley Jackson, ha scritto che nessun essere vivente può conservarsi a lungo sano di mente in condizioni di assoluta realtà. Questo elemento ci racconta tantissimo di qual è il nostro rapporto nella narrazione della realtà e nella cronaca nera, dove l'esistenza di narrazioni che toccano i gangli profondi, le questioni irrisolte, le paure, le viscere, il sangue, pone continuamente l'esigenza di vie di fuga che avvengono attraverso il fantastico. La cronaca nera, paradossalmente, è un luogo pieno di creature strane, di vampiri, di licantropi, di messe nere, di satanisti, di elementi che continuamente ci portano a vedere il male, il cattivo e il mostro, o come elemento metafisico lontano e distante, o come povero Cristo che per caso o per ventura ha creato una serie di elementi di elementi negativi. Non è un caso che io abbia scelto per raccontare una storia di cronaca durissima La chiave del fantastico, e non è un caso che nel momento in cui Taranto è in apertura di tutti i telegiornali, in tutti i talk show, in tutti i balletti politici, l'unica chiave di lettura che io mi sentirei di consigliare a chiunque è il libro di Geronimo, che è un libro di genere, no? Senza fingimenti, senza... un libro di genere costruito a modo con tutti i suoi ingredienti, che ci racconta non soltanto no, dello sviluppo della storia, ma dello sviluppo di tutta quella che è la questione del siderurgico di Taranto, della questione dell'Ilva, mettendo in campo quella che è la bestia, il mostro di cui non si vuole parlare, ma che è un mostro che noi tarantini, anche da expat, ci portiamo dentro, perché è un mostro che ti insegue anche se scappi. Io sono andata via col primo treno quando ho compiuto 18 anni, e un giorno, toc toc, breaking news, 20 anni dopo, il cancro mi è venuto a cercare direttamente da casa, anche se io mi ero nascosta molto molto molto lontano. Taranto è quel posto dove tu sei continuamente, anche quando sei distante, che cerchi di raccontare e non puoi raccontare, perché poi la gente ti dice: ma tu che vai dicendo, ma dove sei, tu che sei di fuori, ormai sei uno di fuori, no? Sei uno diverso, sei uno distante. Tanto è quel posto in cui sei legato continuamente dalle narrazioni che vedi intorno a te, narrazioni in cui è impossibile identificarti, perché sono narrazioni completamente stereotipate, proiettate. Il tarantino, per sua vocazione, si porta presso una specie di croce, di condanna. Nelle narrazioni tutte in qualche modo edulcorate, tutte ridanciane, della Puglia, è un elemento che non si riesce mai a classificare. Quando io sono arrivata all'università a Roma negli anni 90, il pugliese meglio era Lino Baffi, no? Facciamoci due risate, occhio malocchio, pezziamo il finocchio. Tu sei di tanto, ah, peccato. Quando abbiamo avuto un fantastico sindaco che si chiamava Giancarlo Cito, siamo diventati un po', giustamente anche, no, lo stereotipo di certi fenomeni politici che stavano diventando, travolgendo l'Italia, che lì e poi sarebbero arrivati poi nelle case di tutti, con l'avvento di Berlusconi, e anche di grandissima vergogna. Non solo non sei Rino Baffi, non solo non fai ridere, non solo non sei il Salento, Cicireo, con le canne, il sole, il vento, ma c'hai pure la vergogna di avere questo fantastico primo cittadino. E di lì in poi, nel momento in cui la Puglia, ancora oggi, diventa un teatro quasi, diciamo, il luogo dove tutti vorrebbero vivere, Taranto che posto ha? Taranto è quel posto che non ti viene mai in mente quando cerchi su Booking gli hotel per andare in vacanza, quel posto che quando trovi un posto di mare che sei costretto a chiamare gli amici che vengono da Puglia e dici: ma c'è bello lì, ma è un po' Salento, si avvicina, no? Se stai in zona, nonostante ormai i flussi siano arrivati addirittura fino alle nostre spiagge, Campomarino, luogo simbolo per gli americani, Punta Prosciutto, il posto dove incontri chiunque, e io in 30 anni di vita non ho incontrato mai nessuno, ho passato estati di feroce solitudine. Che cos'è Taranto? Taranto all'improvviso diventa la città della diossina, la città dei bambini, dei piccoli angeli morti, la città di cui tutti si riempiono la bocca, la città che deve salvare il destino industriale d'Italia e d'Europa, la città che non sopravviverà senza la fabbrica. una narrazione dalle quali non c'è scampo, no? Non c'è via di uscita, una narrazione che non arriva per caso a Taranto. Taranto è una città in cui è impossibile vivere, è una città sul mare dove tu il bagno non lo puoi fare, dove il mare ce l'hai lì. Io ho vissuto tutta la mia vita con un'insegna di un albergo che ostruiva tutte le mie finestre, vivevo davanti al mare, neanche lo vedevo, forse lo annusavo un po', forse la signora dell'attico all'ultimo piano, io ho sempre sognato che lei avesse una vista meravigliosa che a me era preclusa. Taranto è un posto dove la passeggiata che arriva fino davvero a toccare il mare nella parte nuova della città, almeno nella città vecchia no ovviamente, è stata costruita soltanto pochissimi anni fa, dove era accettato da tutti il fatto che intere sezioni della città fossero ostaggio dell'arsenale, dove tu arrivavi e dici che bello che c'è di là, ah non lo so, c'è un muro altissimo che chiudeva letteralmente posti anche cruciali per la vita cittadina, ma che noi abbiamo sempre accettato che fossero separati, distanti, rinchiusi, separati, tolti alla vita di tutti. Una città dove tu arrivi e dici, ah forte, questa via si chiama via dell'anfiteatro, perché si chiama così? No, perché sotto i palazzoni, sotto il cemento, sta tutto, sta l'anfiteatro, stanno i resti, come se uno andasse ad Atene, ah questa è via dell'Acropoli, però sotto sta tutto, voi non lo vedete, non ce ne frega niente, ci abbiamo costruito sopra in allegria, ma appunto là sotto i nostri piedi, le cose che non si devono vedere, non si devono nominare, no? Sta tutto. E tu arrivi in quella che è stata la capitale della Magna Grecia e trovi due colonne, due. Perché un po' qualcosa sotto e sopra la lasciamo. Quindi tanto è questo posto impossibile, che ha vocazioni che continuamente vengono negate e che all'improvviso si trova a essere al centro di una narrazione onnipresente, che ci bombarda continuamente e che ci vuole dare Quante volte ti ho detto di no? Il tono di quando parli col cane. E anche noi ci dicono di no continuamente, ci dicono che non sopravviveremo senza fabbrica, che possiamo andare avanti. E quindi ci dicono di no e ci dicono che questa cosa, che questa narrazione noi la dobbiamo subire senza poterla ribaltare in nessun modo. Ed è per questo che noi tarantini, che siamo sempre schiacciati in questa separazione e dicotomia, da un lato siamo quasi pronti ad accettarla, questo no che ci viene detto, e dall'altro cominciamo un po' a tirare fuori la testa da questo sacco, da questo buco nero che sta intorno al siderurgico e che è la città in cui siamo nati e cresciuti, dalla quale magari siamo scappati. E questo tentativo si porta dietro anche l'incapacità di immaginare il futuro, di avere davvero un approccio fantastico, fantascientifico, perché immaginare Taranto senza il siderurgico, questo sembra una scommessa quasi distopica. Perciò secondo me è importante tantissimo leggere il tuo libro, e mi ha fatto anche molto riflettere la questione dei bambini di cui tu parlavi. Dei bambini si parla, dei bambini di Taranto, ma si parla sempre come le povere vittime di questa tragedia immane che è arrivata, su cui non puoi fare niente, come il terremoto, come le desertificazioni, come i bambini, appunto, sai, ci sta il gigante che arriva, ogni tanto si accorre un ragazzino, se lo serrocchio, è andata così. E questa trappola di questi bambini che sono tanto mediatizzabili, sono tanto funzionali al racconto della povera città di lì col cuore lacerato in due, noi in qualche modo dobbiamo cercare di smontarlo. E quella è una delle prime retoriche che ci inchioda a Taranto non poter andare avanti senza la fabbrica, o Taranto in questo immaginario davvero favolistico che fa il miglior acciaio d'Europa, no? Noi non possiamo smettere di fare acciaio, perché madonna, ci veniva così bene, cazzo, questo acciaio. È davvero un peccato che noi smettiamo. E nel libro di Girolamo c'è grandissima attenzione, ci sono tanti bambini, no? Che sembrano marginali rispetto allo svolgimento della storia, ma non lo sono affatto. E come i bambini che ci sono anche in pozzi, in qualche modo sono lì per tirare fuori tutte quelle sono le contraddizioni. Le stronzate che dicono gli adulti e quelle retoriche dalle quali sembra impossibile uscire. Quindi secondo me anche il tuo è un libro davvero dove il genere serve per raccontare la realtà e serve per farti andare in faccia, completamente in fronte, tutte le narrazioni che noi qualche modo dobbiamo riuscire a dissipare, se vogliamo, la città. Di Taranto abbia un futuro, ma se vogliamo anche in qualche modo smettere di pensare a Taranto come un elemento locale, di folklore, di poveretti che stanno lì e devono scegliere tra il lavoro e l'ambiente, e capire che la questione di Taranto è una questione cruciale a livello nazionale e non soltanto, e sulla quale tutti quanti dobbiamo cercare di andare oltre le risposte preconfezionate. Scusate, mi sono dilungata. Prima di dare la parola a Gio, secondo me la differenza tra il bambino vittima della cronaca nera e il bambino vittima delle cronache sul libro è che nella narrazione sviluppista, appunto nella narrazione in realtà che dice che non si può fare a meno della fabbrica, il bambino vittima non ha carnefice. Perché appunto viene oggettivato il processo per cui muore e quindi non va vendicato, mentre nella narrazione della cronaca nera c'è sempre il mostro che va linciato, condannato, eccetera eccetera, perché il bambino vittima va vendicato nella narrazione. Questi bambini qua, anche quando c'è la lacrimuccia, c'è il pietismo, però nella narrazione dominante, intendo non in quella degli attivisti contro la fabbrica, non va vendicato. Cioè, perché appunto è un sacrificio, come dicevi tu, è come ogni tanto si dà al gigante un bambino per tenerselo buono, lui se lo divora e fino alla prossima volta siamo a posto. Piangiamo insieme alle mamme e ci fermiamo lì, La parola a Giro. Allora, poi cerco di essere all'altezza, nel senso che mi hai fatto una tale presentazione. Però insomma anch'io ho qualcosa da dire sul tuo Pozzi, ci arrivo passando per gradi. Beh, intanto questo mio romanzo ha un curioso destino. Io l'ho consegnato il 25 gennaio, tengo a dirlo perché sono successe una serie di cose e ho letto una serie di libri che, se uno pensasse, a volte mi è anche capitato che mi sia stato detto che io avevo scritto, quando scrissi il terzo romanzo, mi ha detto: vabbè, hai fatto l'instant book su Cogne? Ho detto sì, perché secondo te in una settimana un libro si scrive, approvato, va a stampa ed è in libreria, no? Quindi ovviamente non è un instant book scritto nei giorni dell'Ilva, ma sono usciti una serie di libri e poi mi sono anche capitati una serie di incontri personali che farebbero pensare che io in realtà abbia letto quei libri prima di scrivere, no? Ad esempio c'è un programma televisivo in cui, con la retorica del politichese, cucendo un discorso di Nardella, un discorso di Vendola e cucendolo, spero che non si veda il punto di sutura, in realtà c'è tutta una sparata sulla retorica del decoro, ma non era ancora uscito La buona educazione degli oppressi. Quando l'ho letto ho detto, né La buona educazione degli oppressi è stato scritto avendo letto il mio libro, però è esattamente quel discorso lì. In realtà il segreto è che ambedue, sia io che Wolf, abbiamo lavorato sulle fonti, cioè siamo andati davvero a smontare la retorica, Wolf in modo analitico come inchiesta, io mettendolo in bocca a determinati personaggi che sono già caratterizzati quando aprono bocca in quel momento, a usare le loro parole. E il tipo di lavoro che fa Selene sulla cronaca è qualche cosa che in qualche modo ho fatto anch'io, nel senso che ci sono diverse inchieste di cronaca. Ad esempio c'è un intero frame narrativo che è davvero successo in una città del centro nord, in realtà, che io ho ricostruito grazie a una serie di amicizie che mi hanno indicato dei casi dimenticati e in qualche caso anche dei cold case che vanno a comporre una compagnia di giro di gioventù dorata, alcuni dei quali finiscono spataccati contro un albero con un ago nelle vene, o compiono un delitto talmente maldestro da essere beccati subito, ma credo sia la pagina più macabra di tutto il mio romanzo, ma è successo davvero con il ritaglio di giornale. E però quelli che sopravvivono fanno carriera, nella realtà hanno fatto più carriera di quanta ne faccia fare io e i miei personaggi, arrivano al governo di una città. Così come c'è un personaggio, c'è una morte, che è una rielaborazione di un cold case mai risolto a Taranto. Negli anni '80 fu assassinato un insegnante, una gran brava persona, gran bravo insegnante tra l'altro, figlio di un insegnante famoso e terribile, anche gigantesco, una specie di Jabbanur che insegnava matematica, provate a immaginare che timore potesse fare. Suo figlio veniva su come un bravo insegnante, non è stato mio insegnante ma nel mio liceo, fu assassinato e si disse subito che comunque era un delitto ambientato nell'ambiente dei gay, il che è probabilmente vero, ma non era nota la sua probabile omosessualità e nulla della sua biografia faceva pensare questo, però si disse immediatamente questa cosa qui e poi non si è più saputo se è stato un omicidio, un tentativo di rapina finito male, un andiamo a dare la lezione al frocio e poi l'abbiamo picchiato un po' troppo, un delitto di gelosia, non si è mai saputo il perché, è un caso tuttora irrisolto. Io l'ho molto rielaborato, però viene fuori da lì. E il tipo di lavoro che fa Selene, peraltro, nello smontare, e purtroppo mi devo mordere la lingua perché non posso dire più di quello che ha già detto Roberto su Esselio, quindi il di più ce lo siamo detti tra di noi, ed è una di quelle cose che, oh ma guarda, perché ti ho tirato fuori un ricordo di infanzia, perché vedo qualche anno in più, ecco ad esempio tu citi un caso di cronaca che non hai vissuto in diretta, l'assassinio delle tre ragazzine a Marsala, dico bene, Michele Vinci, e io in realtà avevo 10 anni e mi ricordo che non tanto il rapimento delle tre bambine, ma i giorni che intercorsero tra il ritrovamento del cadavere della prima e dei cadaveri delle altre due cuginette in un pozzo, in quei giorni lì davvero tutti quanti erano attaccati alla radio, cioè i notiziari avevano un orario, le notizie si ascoltavano solo a una certa ora ed eravamo davvero ad ascoltare i notiziari per sapere cosa era successa alle altre due bambine, un po' come la vicenda di Alfredino, ecco, solo che quella lì fu in diretta, c'era la televisione, per cui io ho ritrovato quel tipo di narrazione, no? E anche lì in realtà è un cold case anche quello, perché c'è una ciocca di capelli femminile di cui non si è mai saputo nulla, non è delle bambine, non è palesemente del mostro presunto tale, e poi ci torniamo su questo mostro, però non si è mai saputo, ed è probabile che non fosse un personaggio isolato, avendo gestito il rapimento di tre bambine, una è una nipote, però due amiche, e vabbè. Dico, il tipo di lavoro che fa Selene serve poi a smontare una certa narrazione che a Taranto si sta vedendo, e attenzione, lo notavo prima, non è come la retorica del Mose che è esplosa improvvisamente a Venezia. A Taranto è iniziata da settembre una narrazione normalizzata, con buona pace di chi dice che è stato un fulmine a ciel sereno la decisione di Mittal, da settembre anche programmi tra virgolette pseudo militanti si erano normalizzati, passa un'unica narrazione. E ve ne faccio un esempio, c'è un tweet di una giornalista, comunque una che in realtà scrive sul blog del Foglio, e che commentando un'intervista che è andata in onda su Propaganda Live, in cui si diceva una cosa, cioè che il tasso di diossina presente nel latte materno delle donne di Taranto è superiore alla media, ok, sta cosa delle mamme che non possono allattare è falsa, bastava andare a chiedere o leggere 1000 dichiarazioni di primario neonatologo relazioni ASL, ma voi date per vero quello che non dicono autorità scientifiche e contribuire al danno che è già grosso, hashtag Ilva, perdonate ma l'italiano di questa giornalista è questo, qui va così. Ora, questo tweet è stato ritweetato da un giornalista che è dirigente di programmazione Rai 1 di Taranto, ambedue. Che la percentuale di diossina delle donne di Taranto sia vi evito le statistiche parziali, il 28% è per l'insieme delle sostanze ad azione diossina simile. È uno studio realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il Dipartimento Prevenzione dell'ASL di Taranto, e i dati che sto leggendo sono da una notizia pubblicata sul sito di Rai News. Però circola questo tipo di informazione, per cui basta dire non è vero, sono minchiate, state diffamando Taranto, come l'acciaio che è il migliore del mondo, in realtà è scadentissimo, tant'è vero che l'acciaio di buona qualità lo importiamo, le navi che portano il materiale ferroso dal Brasile, ma non si dice che quell'azienda che scava in Brasile ha più volte vinto il discutibile premio di azienda più devastante col peggior impatto ambientale del mondo, per cui l'ILVA fa un danno a valle ma a monte, cioè. E così via. Allora, tutto questo per girare intorno, per andare poi al perché ho chiamato le cose innominabili questo romanzo, perché c'è un frammento di Archita che parla di tre cose alle quali non dovremmo accostarci, quelle innominabili che volano sopra la testa degli uomini, ed è chiara tanto cos'è, quelle innominabili che giacciono sotto i piedi degli umani, quelle innominabili che ruggiscono nel petto degli umani. Cioè il lavoro che ho cercato di fare io è quello di parlare non soltanto di quello che c'è in cielo e più o meno lo sappiamo, anche questa polvere continua a cadere, sono già diventate rosse le coperture dei parchi minerali, quello che c'è nel sottosuolo che non si può trattenere, nel senso che il gas affiora il catrame, non si sa perché c'è del catrame liquido sotto i piedi, ma affiora, e poi c'è anche l'amianto, eccetera. Ma tutto questo ha un effetto sui sentimenti, le passioni, e quindi il rancore, la rabbia, le modalità di relazioni, gli usi e i costumi, di cui si parla poco. Ora, io credo che la Puglia, da questo punto di vista, sia, aggiungo purtroppo, ma sia un caso di studio esemplare. È quello che ha cercato di mostrare, ad esempio, La Gioia con i suoi due ultimi romanzi, uno dei quali, tra l'altro, La Ferocia, dice delle cose sul sottosuolo del Gargano che, se fossero vere la metà, Gomorra sarebbe Disneyland. Nel senso che dice che che nel Foggiano ci sono delle discariche che sono peggiori di quelle di cui parla Saviano in Gomorra. Questo per capire, al di sotto di questo parco che è la Puglia, questo luogo turistico nel quale la comunità europea ha finanziato film stilisticamente perfetti, nei quali non si vede mai un migrante, quell'individuo che riesce ad andare da un punto A o un punto B della Puglia, scegliete un punto A o un punto B a caso, ospite che è l'unico che non riesce mai a vedere un migrante andando da A a B. Sfido chiunque di voi ad andare da A a B, scegliete A, B a piacere, e non vedere un migrante che coltiva, che raccoglie pomodori, che vende stracci sulla spiaggia. Ci sono solo gay felici. Per cui un mio amico gay ha detto: porca miseria, chi conosce la mia condizione sa perfettamente quanto è difficile trovare qualcuno che ti corrisponda, solo nei film di Ospedek, come scendi dal treno, star tutti. E il Salento non è da meno quanto a sottosuolo, ma il lavoro, e qui vengo a quello che fa Selene, in un libro che con strumenti diversissimi, perché anche quelli di La Gioia sono romanzi, come dire, strutturalmente classici, come lo è per certi versi, almeno nella sua struttura, il mio, fa un lavoro che non è soltanto il povero bambino ha negato, chi sarà il mostro, chi sarà, ma un lavoro di cerchi concentrici sempre più stretti sui sentimenti e le passioni che ci sono attorno a questo mondo, di questo quartiere abitato da una popolazione di origine nomade, dove, attenzione, la parola nomade, noi oggi facciamo nomade uguale zingari uguale rom, già sinti ce li dimentichiamo, ma in realtà nell'Italia fino agli anni 60 così come in Francia, così come in Irlanda, così come negli Stati Uniti, ci sono comunità nomadi che sono nomadi proprio nel senso che si spostano, ma non hanno nulla in termini, come dire, di etnia che ha a che fare con i Rom o i Sinti. Cioè non è vero che siamo sempre stati tutti sedentari, ci sono delle comunità che viaggiavano, e non solo i circensi, che arrivavano a scadenze fisse. Poi anche da me si diceva, attenzione, vi ricordo mia madre, chiudete le finestre che sono arrivati gli zingari, noi abitavamo al quarto piano. Però perché due volte all'anno arrivavano questi carri. Allora una di queste comunità vaganti a un certo punto smette di vagare e costruisce, si insedia in un luogo degradato, tanto quanto sono degradate le case di spaccio che cerco di raccontare io, all'interno di uno dei più popolari quartieri di Taranto, che nel degrado di Taranto sono diventati veramente il punto più basso del degrado. Quartieri che io frequentavo da ragazzo, perché all'epoca quartiere popolare significa luoghi dove gli affitti sono bassi, detto come va detto, tutte le sezioni di tutte le organizzazioni extra parlamentari erano in quel rione perché costava poco, e quindi io li frequentavo. Adesso sono dei luoghi di degrado, di spaccio, in cui davvero vengono le case di spaccio vengono davvero trovate lì. Ecco, qui non abbiamo una casa di spaccio, ma abbiamo un mondo chiuso, un mondo che non si relaziona con gli altri, che non a caso a un certo punto se ne paragona ai Rom, ma non perché siano simili a Rom i truscianti, perché i discorsi sui truscianti sono gli stessi che facciamo sui Rom, ivi compreso il fatto che per definizione sono immutabili. Non possono che essere uguali a quelli che sono stati, per cui saranno sempre così, il che per inciso si sottintende, la parola non detta è bestie, cioè non umani. E quindi c'è un razzismo latente che viene pompato da questo clima, chi sarà il prossimo bambino, dalla ricerca ossessiva del responsabile, per cui deve esserci un mostro, anche se poi in realtà, da un punto di vista giudiziario, perché comunque Selene si aggancia alla cronaca e quindi segue l'andamento, beh, in realtà si passa da un imputato all'altro, per cui non c'è mai stato probabilmente nessuno che ha pensato a un unico mostro, però il mostro c'è. Nel senso che se ha ucciso uno non può che ucciderne un altro, e ovviamente non può che essere uno di questa comunità, di questa comunità dei truscianti. Però questo quartiere è dentro una città, un grosso paese, diciamola così, che è dentro un mondo che è quello degli anni 60, un mondo che non è stato raccontato benissimo. Gli strumenti principali della narrazione erano quelli di una certa commedia all'italiana all'epoca, che ha fatto del bene, che ha raccontato bene certe cose, però ci sono certi interstizi che sfuggono, ed è per questo che poi capita che la migliore narrazione, non soltanto di quel fatto di cronaca, che forse voleva solo raccontare quello facendo un film, ma comunque la migliore narrazione di certi luoghi, e ce n'erano tanti così diffusi nel sud, sia proprio quel film di Lucio Fulci, che non si servizia un paperino, che è uno dei pochi film che Barbara Boucher non è riuscita a far scomparire dal mercato, per inciso, perché avendo poi poi ce la racconti, no? Perché Barbara Boucher, attraverso il potere della sua attuale famiglia, ha fatto sparire buona parte dei film in cui recitava, per i canoni dell'epoca svestita, per i canoni attuali mica poi tanto, però ha cercato di cancellare la propria immagine, però non si servisse un paperino e è rimasto. E a un certo punto, un attimo che le mie mitiche orecchiette piegate che servono a questi libri, e ecco perché non leggo sui tablet, perdonate, ma non puoi fare l'orecchietta al tablet. Sì, lo so che ci sono degli equivalenti, ma non è lo stesso. Selene va a scovare un articolo di cronaca, di commento alla cronaca del 6 maggio 72 di Lotta Continua, in cui un articolo non firmato, capitava spesso su Lotta Continua, in cui i delitti di Bitonto sono collegati a quel caso, a quel triplice infanticidio avvenuto a Marsala. E il commento finale, si è passati dai bambini annegati, l'articolo viene scritto nel mezzo della sequenza dei bambini, e l'articolo finisce così: ovviamente questo del delitto sessuale può essere anche lo sbocco del cumulo di frustrazioni che il sottoproletariato meridionale cova dentro di sé, della quantità di frustrazioni che il padrone gli infligge, della paura antica di perdere il posto che lo fa succubo, magari sorridente. La sua rabbia, se non matura in rabbia collettiva, proletaria, politica, può dare anche questi frutti. Non è giustificabile. No, calma, non sta giustificando. Oltretutto non c'è questa persona, poi si fa riferimento, è stata scagionata e non so neanche per questa però non è una giustificazione, no. È un quadro sociologico. Esatto. Quello che intendevo dire io è questo: le cose innominabili che giacciono nel petto degli umani sono in relazione, diciamo, con l'aria e col sottosuolo, con l'ambiente, con la fabbrica e col tipo di vita. Però questo legame non viene spesso colto. Determinati comportamenti non vengono spesso colti, ed è per questo, chiudo, che ho creato un personaggio, un po' per liberarmi di una lettura ghiacciante tanto quanto il libro di Selene, che è La dismissione di Ermanno Rea, un libro che ho letto perché a Taranto si dice che, ovviamente, se vuoi capire cosa significa la cancellazione dell'industria da un luogo come Taranto, devi leggere La dismissione. Credo che quasi nessuno di quelli che si ripetono questo mantra abbia letto La dismissione, perché La dismissione non è affatto, come mi sarei aspettato, il racconto della deindustrializzazione, ma è la narrazione di un operaio talmente alienato dalla fabbrica da non riuscirsi a concepire senza. In realtà non è neanche un operaio metalmeccanico, tecnicamente parlando, ma un quadro intermedio che ha contribuito alla progettazione, e che quando Bagnoli viene venduta ai cinesi, Rea si immagina che i cinesi si comprino Bagnoli, se la smontino e se la portino in Cina, pur di non rinunciare alla fabbrica, perché non è capace di pensarsi fuori dalla fabbrica, se la smonta lui nella speranza che i cinesi poi lo prendano per rimontarla in Cina. Ed è talmente avvinto in questo che la sua vita va a rotoli, la sua famiglia si sfascia e lui non se ne accorge perché è ossessionato dalla fabbrica. Io ho fuso questa figura giocando anche con una curiosa assonanza di nomi e cognomi, che il mio personaggio si chiama Alberto Buonocore, il protagonista del romanzo di Rea si chiama Vincenzo Buonocore, e poi, per chi ha una certa memoria e una certa storia, c'era un compagno militante dei NAP, Alberto Buonoconto, che sarebbe dovuto essere scarcerato perché stava impazzendo in carcere. Purtroppo per lui fu proposto come il terrorista che però non ha mai sparato un colpo di pistola da scambiare con Moro. Il risultato di questa improvvida proposta fu che Buonoconto fu tenuto in galera più mesi di quanti ne avrebbe dovuto fare, e quando fu scarcerato era ormai andato fuori di testa, andò a vivere dalla sorella, trasformò la camera in una cella, disegnò col pennarello le sbarre alla finestra, buttò fuori dalla camera tutti i mobili che non ci sono in una cella e poi si è impiccato in camera. Perdonate, è la settima vittima diretta di tutta la vicenda Moro, da questo punto di vista. ho fuso questi due personaggi proprio per trovare un modo per esprimere questo cumulo di passioni tristi, perdonate il linguaggio da filosofo, ma questo è quello che io vorrei essere nella vita, che vengono generate da un certo tipo di ambiente. In entrambi i libri c'è questa presenza continua, evocata in tanti modi e ce l'hai sempre, letteralmente sotto i piedi, del sottosuolo. Questo sottosuolo è nel libro di Giro è variegato, perché appunto è il catrame che emerge da sotto, che affiora dal terreno, e sono i fanghi dei parchi minerari, sono le colline non sotto piene di rifiuti speciali, sono queste di grado nelle scuole, sono appunto queste grotte piene di catrame dove molto probabilmente viene fatto scomparire un cadavere di un personaggio che scompare proprio all'inizio del libro. Quindi c'è continuamente questa presenza, no, del sottosuolo. In Pozzi il sottosuolo è fin dal titolo e dall'immagine di copertina, cioè perché ci sono questi pozzi, poi in realtà non sono i pozzi che ci si potrebbe immaginare, no? Sono molto diversi, vengono chiamati pozzi, ma non sono quello classico, no? Quello con appunto l'imbocco in muratura, tondo, con il suo bel secchio per prendere l'acqua, non è nemmeno il pozzo artesiano in cui scompare Alfredino, testè evocato, ma sono... Forse è meglio che lo spieghi tu esattamente cosa sono, e anche il loro portato simbolico nel romanzo, che è molto forte. In realtà non sono pozzi, sono delle cisterne dell'acqua, che sono il residuato di un periodo più felice del quartiere dove si svolge la storia, che era anticamente il quartiere centrale di Bitonto, il quartiere dei signori, e in un luogo dove non esisteva l'acquedotto, prima dell'arrivo dell'acquedotto pugliese, le persone agiate avevano in casa loro delle cisterne dove poter conservare l'acqua, che era ovviamente un vantaggio grandissimo, no? Rispetto a tutto il resto della popolazione. Quando finalmente in Puglia arriva l'acquedotto e si vengono a creare nuovi quartieri agiati, e quindi il centro storico si svuota e piano piano cominciano ad arrivare in un afflusso che dura 150 anni, perché i truscianti che poi sono al centro di questa storia sono lì da un secolo e mezzo alla faccia del nomadismo. Di questo antico uso dell'acqua, delle cisterne, non c'è più quasi traccia. Le cisterne sono dei buchi rimasti all'interno di questi bassi livelli di elettricità, privi dei più elementari, diciamo, comodità, che degli occupanti vengono coperte da bene e meglio, ci mettono sopra una macchina da cucina, ci mettono delle lastre, perché sanno che quei buchi nel terreno sono letteralmente dei buchi neri, di acqua sporca, di fango, che sono pericolosi per tutti, e sono comunque quasi simbolicamente il ricordo di quella trasformazione verso il cosiddetto degrado che il quartiere ha vissuto, e ha vissuto proprio nell'abbraccio con i suoi nuovi abitanti. E c'è questo doppio salto in cui questi pozzi vengono aperti nuovamente per la prima volta quando questi bambini vengono trovati morti al loro interno, e questa apertura dei pozzi in qualche modo scoperchia il pozzo, che è il quartiere stesso dove loro vengono rinchiusi e vivono separati dal resto del quartiere. I protagonisti della storia di Pozzi, mi viene in mente come gli abitanti dei Tamburi rispetto al resto di Taranto, sono chiusi all'interno di un recinto che non si vede ma è praticamente invalicabile. La situazione dei Tamburi è sotto gli occhi di tutti da almeno 30 anni, ma è comunque una situazione che finché è rimasta nascondibile all'interno dei confini del quartiere è stata facilmente accantonata. Io penso nella mia vita di ragazza, di abitante, non di aver mai messo piede ai Tamburi, non c'era niente che ti portava, era un settore della città, tanto ce ne sono tante di queste sacche, penso a Paolo VI, penso a altre strutture di isolamento e di separazione, no? Una città piena di confini invisibili o di luoghi che non devono essere frequentati. Vale a Taranto anche per il centro storico, perché l'isola, il borgo, ha subito una maldestra riqualificazione negli ultimi anni, ma per tanto tempo è stata terra di nessuno, un altro dei posti non vissuti della città o della parte bene della città di cui però non si poteva parlare, no? E quindi il pozzo rappresenta, è un elemento che istintivamente ti rimanda un folklore positivo, il pozzo dei desideri, ma anche minaccioso, perché l'acqua ha sempre questa valenza lì. Ma un pozzo che viene soltanto di acqua sporca è un pozzo del rimorso e del rimosso, in qualche modo. Che è un po' come la polvere che cala dal cielo sui quartieri e che tu più la togli, più ritorna e non la puoi nascondere in nessun modo. E vorreste vedere tanti pozzi, ci abbiamo provato in tutti i modi, perché poi una delle questioni sottese che riguarda Taranto è che davvero non c'è bisogno di avere i documenti dell'ARPA per sapere che l'emergenza è presente da tanti anni. Quando tu torni a casa e la prima cosa da cui riconosci casa è l'odore del ferro che ti accoglie quando tu arrivi con il treno. Se tu dal tuo terrazzo vedi incredibili aurore boreali rosse di diostina, non c'è bisogno di nessun documento che ti venga a dire che c'è qualcosa che non va. Però ancora lì il non voler vedere, la narrazione che deve essere preclusa, il pozzo dove nascondere tutto quanto. Ho fatto caso solo adesso che anche in quell'articolo di Lotta Continua si parla del ricatto tra il lavoro e la sopravvivenza, cioè questa è una narrazione che non riguarda soltanto Taranto, ma tutta Puglia, che noi ci portiamo dietro da un bel po', e che in qualche modo è rimasta dentro questi pozzi come questa storia, che io ho voluto quasi davvero andare a ripescare, così come sono stati ripescati i corpi di questi bambini, e che nessuno vuole ricordare, che è ancora difficile ricordare, perché anche questa storia qui Abitolto è tutt'altro che risolta. Io nel momento in cui mi sono approcciata a questa vicenda mi sono imbattuta nell'unico articolo che parla un po' approfonditamente della morte di questi cinque bambini. Il più piccolo aveva un mese, la più grande aveva 4 anni. Sono morti tra il settembre del 1971 e il giugno del 1972, quindi in maniera molto ravvicinata fra di loro. Di questi bambini si parla in un articolo del 2012 che viene scritto da un corrispondente bidontino, che fa un articolo anche molto delicato, molto garbato, che semplicemente rievoca questa triste e strana vicenda del passato. Nel momento stesso in cui questo giornalista pubblica questo pezzo, 10 minuti dopo gli squilla il telefono e gli arriva una minaccia, gli si dice: tu di questa storia non devi più parlare, noi non vogliamo essere identificati, no? Con una storia criminale, non vogliamo che Bitonto sia la Gomorra del 2000, cioè sia la nuova Gomorra in qualche modo. E questa cosa, che da un lato, dal punto di vista superficiale, giornalisticamente parlando, ti dà l'innesco per un sacco di voli pindarici, perché uno potrebbe dire: ah, allora chi ha telefonato di sicuro è l'assassino, di sicuro sa la verità, no? Sarebbe una cosa da cui buttarsi a piene mani. In realtà quello che ti racconta è che evidentemente ci sta ancora chi soffre per quella vicenda, e che quel circo mediatico ha lasciato delle ferite che non si sono mai spente, ha lasciato vite che sono state spezzate, persone che sono andate in galera, minori che sono stati accusati di questi delitti e che a volte non sono sopravvissuti. E quindi non soltanto le vittime degli omicidi, ma le vittime anche minori dell'indagine giudiziaria su questi omicidi. E che evidentemente di quella storia bisognava cercare di trovare un appoggio che non ci facesse ritornare in fondo del pozzo, ma che riportasse, facesse uscire, spurgare in qualche modo tutti i liquami e ne facesse qualcosa di utile. Io ho cercato di tenermi lontana dall'atteggiamento del giornalista che va lì sul posto dopo 20 anni, 40 anni, trova la bella storia folcloristica, così come tanti arrivano a Taranto come se arrivassero in zona di guerra, no? Interessati soltanto a fotografare il rosso sulle lapidi o sulle lenzuola, a ottenere la lacrima della mamma, che è ancora un altro elemento che fa della storia dei pozzi una storia molto attuale e che ci fa vedere come certi linguaggi che sono propri, no, della cronaca nera sono lì a raccontare una storia di disastro ambientale e una storia di strage, no? In qualche modo, di cui qualcuno è responsabile, e che questi linguaggi si uniscono fra di loro nel raccontare una storia in cui il cattivo non c'è, che è una cosa davvero paradossale, se tu pensi che adesso anche quando si tratta di parlare di incendi si parla dell'incendio come dell'assassino che va fermato. Quindi è davvero strano che quando si approccia alla questione di Taranto il mostro che è davanti agli occhi di tutti non possa neanche essere ucciso, perché solo l'uccisione del mostro è un inconsulto. Invece vorrei fare la prossima domanda a Giro partendo dalla sua nota biografica, che è scritta nella Letta delle cose innominabili, dice: Girolamo De Michele è nato fra le diossine di una città del sud e vive fra le emissioni nocive di una città del centro nord in una nazione a sud dell'Europa, non fuma per non fornire alibi futuri. Si sente così. Ecco, perché appunto Giro, prima di occuparsi del mostro della sua città natale, si è occupato di mostri della sua città di adozione, occupandosi appunto con La faccia di cera, che è un romanzo bellissimo, che in questo momento credo sia fuori catalogo, e quindi sarebbe anche il caso di... È il primo di un dittico, ok, e quindi prima di fare il secondo bisognerà recuperare. Ok, allora il primo del dittico è fuori catalogo e l'altro è nel cassetto, è una situazione che andrà affrontata. Ecco. C'è un altro morto. Esatto, è una situazione che andrà affrontata. Con La faccia di cera si è occupato delle vittime della chimica di Ferrara, appunto. Ferrara ama la chimica, perché anche lì c'è una narrazione che, mutatis mutandis, ha tutti gli elementi tossici di quella che avviluppa la vita di Taranto, solo che fa meno scalpore nazionale. Quella di Ferrara è una storia di polo petrolchimico che non ha raggiunto lo status di storia nazionale, ma ce ne sono tante, così per dire. C'è un caso Ilva anche a Trieste, la ferriera di Servola. Come si chiama il polo di Ferrara? Polo petrolchimico, lì poi c'è di tutto. Petrolchimica, come la vedi, quando arrivi da Padova in autostrada, lo vedi sulla sinistra prima di arrivare in città, ed ha di notte ha un aspetto che non è dissimile da queste sequenze notturne con i fumi che si alzano. Quanta gente opererà? Adesso non lo so quanta gente ci lavora, però è stato veramente molto grosso e ha fatto un sacco di morti. E il romanzo Con la faccia di cera di Giro parla esattamente di quei morti, usando il soprannaturale. E ad un certo punto c'è lo svelo, perché non è un grande spoiler eccetera, ma c'è anche il fantasma di Italo Balbo, cioè insomma è una storia dove lui è ricorso agli spettri e ai fantasmi per parlare di un'altra narrazione tossica in metafora e alla lettera. Quanto aver scritto Con la faccia di cera si è rivelato provvido per scrivere Le cose innominabili, quanto il tuo venire da Taranto ti ha permesso di guardare in un modo che i locali non possono adottare alle morti da petrolchimico a Ferrara? Intanto potrei vantarmi che, venendo da una tradizione operaista e post-operaista, che la differenza tra una fabbrica chimica e una fabbrica metalmeccanica è una cosa che va sottolineata, perché non è la stessa cosa. Sono riuscito, non era previsto, ma finito il libro ho detto: ah, però in effetti ho scritto un libro sulla chimica e uno sulla siderurgia. L'ho fatto. E la vicenda di Ferrara, tengo a dire, in termini assoluti siamo sotto i 100 morti, però se prendiamo la percentuale di morti già morti rispetto al numero di lavoratori, siamo oltre Marghera. Cioè, il numero di operai che si sono ammalati per aver inalato il cloruro di vinile, che era quella roba che serviva a fare il Moplen. Adesso qualcuno ha la mia età tra i presenti e qualcuno è più anziano, ve lo ricordate Gino Bramieri che buttava la bacinella a terra che rimbalzava e mo plen. Questo preparato plastico che non si rompeva mai, ecco, quel preparato plastico c'erano degli studi che dimostravano la sua nocività sin dal 49, ok, erano russi, poi sono arrivati quelli americani, e però alla fine i proprietari della fabbrica, che sono belgi, sono i proprietari del brevetto del bicarbonato, per capirci, sono stati assolti, perché andava dimostrato che loro sapevano della nocività e questa cosa non è stata dimostrata. In ogni caso, diversamente ad esempio da Marghera, dove c'è stato un accordo e l'azienda ha pagato e quindi ha risarcito, i padroni della CVM, che adesso non si chiama più CVM, hanno rifiutato qualunque accordo perché avrebbe costituito un principio, perché loro hanno anche altre fabbriche, tra cui una a Livorno, e poi in Thailandia, in Belgio, in giro per il mondo. E fino ad ora l'hanno sempre fatta franca. Ecco, questa è la storia del CVM, e anche lì c'è il sottosuono, nel senso che una parte dei luoghi ex fabbrica sono dismessi e nessuno ha avuto il coraggio di rilevarli, cioè di rilevare degli insediamenti industriali per farci qualcos'altro, perché nessuno ha voglia di sapere cosa succede quando comincia a scavare lì. Perché comunque il CVM è stato buttato nel sottosuolo e poi sopra è stato buttato altro rifiuto, poi è stato chiuso, e in un paese che si inventa una foiba al giorno, a Ferrara hanno fatto davvero questo. E ad esempio non è chiaro quanto vicino alle falde acquifere, a Taranto purtroppo sappiamo quanto vicino alle falde acquifere, dentro è finito il pezzo a Pirene, okay? A Ferrara non si sa quanto vicino, e quindi se beviamo, se l'acqua che beviamo contiene o non ci vuole. E ci fu un caso famoso di un asilo che fu costruito sopra uno di questi depositi, tanto il CVM è talmente sotto che non arriva su in superficie. Con la faccia di cera fu in realtà un romanzo tra virgolette su commissione, nel senso che c'era questa casa editrice, o meglio questa linea editoriale, che aveva questa proposta, e cioè proporre a dei narratori un luogo che fosse un disastro ambientale, lasciando poi il narratore assolutamente libero: tu devi parlare di questo, in modo che noi alla fine del romanzo possiamo mettere 2, 3, 4 paginette di informazione. Ad esempio Wu Ming l'ha fatto sul traffico dei rifiuti, c'è stato chi si è occupato della scomparsa delle api, chi della radioattività in Sardegna, vicino agli insediamenti militari americani, e così via. Eri totalmente libero, però attenzione, questo era il tema, poi eri totalmente libero di scegliere la chiave narrativa, tant'è vero che io gli ho fatto la proposta, ho detto: ma io vorrei tanto scrivere una storia di fantasmi perché ce l'ho nelle mie corde, insomma, chiunque abbia fatto le scuole medie mentre Carla Gravina attraversava gli schermi col candelabro in mano ha un immaginario, non la schiu di Carla Gravina, che il segno del comando. C'è poco di quello che è stato fatto dopo che può traumatizzarmi o colpirmi, perché io una volta sono andato a letto impaurito, scritto da Giuseppe D'Agata, scrittore bolognese, ricordiamo, ecco, capolavoro assoluto, è su Rai Play, insisto, davvero è un capolavoro narrativo straordinario, il segno del comando. E nella storia della Rai lo sceneggiato che ha avuto la prima storia di fantasmi nella storia della Rai, la prima volta che andò in nodo una storia in cui alla fine tutti, adesso verrà fuori una soluzione, e no, è la soluzione che sono proprio fantasmi, cioè tutti quanti dicevano: ok, questo qui nell'ultima puntata si rivelerà, no, era proprio un fantasma, okay? Era una donna dell'Ottocento che in realtà si reincarnava, era stata allieva di Cagliostro, amante di Byron, e poi ricompariva nel Novecento, aveva un motivo per comparire. In che anno è andata? 71? 71, 72? No, forse non, no, perché erano nelle medie, 72, 73. Comunque si trova agevolmente sul sito della Rai e vale la pena. E però per scrivere con la faccia di cera non mi sono accontentato dei materiali che mi avevano dato e ho cominciato a fare delle ricerche per conto mio, mi sono costruito un vero e proprio dossier sulla città che mi è servito per caratterizzare i personaggi, e poi è venuta fuori una storia di fantasmi. Invece per questo libro è successa un'altra cosa. Io avevo già scritto su Taranto, avevo scritto un racconto nel 2004, un racconto per una rivista militante diretta da Tommaso De Laurentiis, che mi aveva chiesto, mi scrivo un racconto su Taranto, e anche lì in realtà, grazie Tommaso, lui si aspettava una cosa noir e io gli, anche lì gli avevo tirato fuori una cosa di fantasmi, uno dei quali era mio zio ammazzato in fabbrica, perché ai miei tempi si chiamavano omicidi bianchi, adesso è già grassa si dicono morti bianche. Okay? Per inciso, una delle ragioni per cui non la chiamo mai col nome, dico solo la fabbrica con la F maiuscola, è ovviamente perché anche chi non è di Taranto senta l'ombra, perché di Ilva, Itazidera, Mittal ce ne sono tante, ma anche perché in realtà mio zio è morto, terzo operaio a morire nello stesso punto, cioè una passerella senza parapetto, dopo la sua morte hanno costruito il parapetto, nella Cementir, che era la fabbrica prima, perché a Taranto non c'è solo l'Italsider, e suo fratello che lavorava all'Italsider ha passato tutta la vita a passare con l'autobus due volte al giorno all'andata e al ritorno davanti alla fabbrica in cui l'avevano ammazzato il fratello, per andare a lavorare all'Italsider. Questa è la storia della mia famiglia. Ora, quando poi avevo narrato Taranto in un capitolo però piuttosto elegiaco in Scirocco, poi quando esplode la crisi dell'Ilva ho cominciato seriamente, diciamo dal 2011 in poi, ho cominciato a lavorare sull'Ilva, a lavorare anche lì di nuovo facendo ricerche, tant'è vero che per una sequenza di articoli che ho scritto, che furono pubblicati su Carmilla, di cui all'epoca ero redattore, ho anche vinto un premio come di giornalismo d'inchiesta proprio nella Puglia di Vendola, benché fossero articoli che svelavano come Vendola avesse sistematicamente mentito e cooperato a nascondere i dati, addirittura producendo una legge che consentiva di falsificare i dati. Tengo a dire questa cosa non per niente, sono anche stato iscritto all'ordine dei giornalisti, ma a un certo punto ho preso un'altra strada e ho smesso di pagare le quote perché non facevo più quel mestiere, ma tengo a dirlo perché quello che dico di Taranto è frutto di un lavoro giornalistico che è stato comprovato da un giudice esterno, perché so benissimo che mi verranno a dire sì, ma sono le minchiate del romanziere, la realtà è un'altra, io ho dei dati. Poi in realtà a un certo punto ho smesso di occuparmene, da un lato perché stavo veramente male, più mi occupavo di Taranto e più stavo male, e sono stato molto male quando ho scritto questo romanzo, e poi perché ho trovato un giovane cronista di Taranto molto più bravo di me, gli ho proposto di rilanciare di sistema i suoi articoli senza neanche chiedergli il permesso, ma avvertendolo che... E questo giovane cronista oggi è uno dei corrispondenti del Manifesto da Taranto da alcuni anni, Gianmario Leone, e continuo a pensare che sia in assoluto il miglior giornalista d'Italia sul libro. Come minimo l'unico che si è studiato la Mittal e non adesso, per cui può scrivere degli articoli sulla politica industriale Mittal perché le è studiata per tempo. Quindi in questo caso è successo il contrario che con La faccia di cera, e cioè è il lavoro di inchiesta che è rifluito che c'era già ed è diventato romanzo. Non ho usato il romanzo per fare inchiesta, ho recuperato questi materiali del passato. In realtà qui non c'è inchiesta, nel senso che non c'è nulla che non si sappia da tempo di quello che c'è qui. E questo perché quello che si sa da tempo poi è confluito anche in materiali. Ad esempio, lo scorso anno un nutrito gruppo di associazioni ecologiste e ambientaliste, che non vanno affatto d'accordo fra di loro, però io non voglio fare la parte del fighetto che, stando lontano da Taranto, vi viene a dire dove avete sbagliato. Voi a volte sbagliate, ma perché fate e state comunque lì. Okay? Taranto, le associazioni ecologiste si presentarono alle scorse elezioni divise in quattro liste, i due candidati che si giocarono il ballottaggio, quello del PD e quello di Forza Italia, insieme avevano preso meno voti delle liste ecologiste, però le liste ecologiste arrivarono terza, quarta, quinta, sesta, che il ballottaggio è così. però hanno avuto la capacità di mettersi insieme, di radunare anche altri soggetti e scrivere un piano Taranto. È chiaro che in questo titolo c'è evidentemente il contributo delle compagne di Taranto, perché abbiamo un piano, è uno delle slogan e anche dei titoli del movimento non una di meno. Questo piano Taranto, che si reperisce facilmente in rete, che è una vera e propria proposta organica, che tra l'altro parte da un documento di Confindustria del 2009. Questo per dire che quelli che dicono che non c'è alternativa tra salute e lavoro e che voi siete capaci solo di dire no, vorrei farvi leggere quello che dice quel capo struttura RAI sugli ambiental qualunquisti, mi limito a questo aggettivo che ha genialmente coniato, che sì, d'altronde lui è un fautore di una società multilaziale. Si definisce così. Era nel fronte della gioventù negli anni '80, questo signore, e se lo rivendica. In realtà l'alternativa, il piano non A o B, nel senso che il piano A sarebbe Mittal, il piano B sarebbe lo Stato, così lo Stato fa la stessa cosa di Mittal, il piano C o qualunque lettera vogliate metterci, c'è già, e c'è già da oltre un anno, però voi non trovate nessuno che venga che vada a intervistare uno qualunque di questi soggetti, compreso il ministro Bellanova, visto che si parlava di polveri, quel ministro che, quando le è stato donato da due madri, una delle quali aveva perso il figlio a 15 anni per un tumore causato dalla diossina, le hanno fatto dono di un quadro rappresentante un teschio dipinto utilizzando come materiale le polveri dell'Ilva. Diceva Selene, perché i tamburi erano un luogo, però ogni tanto dei tamburi venivano fuori. Le ragazze dei tamburi, le donne dei tamburi, qualunque età avessero, quindi anche le ragazze giovani, tu le riconoscevi perché erano sempre vestite di nero, anche nei giorni non di lutto, perché tanto se non ti vesti di nero la polvere ti sporca quello che è addosso. Era una caratteristica delle ragazze dei tamburi, li riconoscevi da quello. Le camicette nere, eleganti, per carità, però avevano questo colore. Bene, la ministra Bellanova, in questo convegno organizzato dalla FIO di Taranto, ha dedicato meno di 50 secondi, senza neanche alzarsi dalla sedia, per rispondere a queste due donne, una delle quali aveva perso il figlio. Ha sprecato quei 48 secondi soltanto per dire: io non ho firmato niente che hanno ucciso alla famiglia, a voi, ma ho... penso di aver contribuito a dare una risposta ai problemi che c'erano. Voi non avete il diritto di dire che il Mittal corrompe me. E dopodiché quel quadro è stato buttato in una aiuola. Il giorno dopo il corrispondente locale di Repubblica Radio Capital passa davanti all'albergo e trova il quadro buttato in una aiuola. L'immagine c'è. Fatto con le polveri. Te l'ha dato una madre che ha perso il figlio, a cui tu non hai neanche stretto la mano. La ministra Bellanova si scusa dicendo che c'è stata una baronda emotiva, ma il video che si trova in rete, che mostra questo incontro, non mostra affatto la baronda emotiva, mostra una signora che si permette di dire: tu non sai chi sono io, non ti devi permettere di parlare male di me, senza neanche alzarsi dalla sedia. Ecco, questo per rispondere a una domanda che non mi hai fatto, ma mi hai fatto a Bologna: com'è che il sindacato ne esce così male dal tuo romanzo? Ecco, no, non era neanche una domanda, era un'affermazione. Ecco, me la faccio e mi rispondo. Tra l'altro qui abbiamo il compagno Vanetti, che qualche tempo fa, per aver definito la Bellanova venduta ai padroni, ha dovuto subire tutta una serie di attacchi in rete, da cui si è difeso leoninamente. Come sempre, ma appunto siamo sempre lì. Ha detto: non puoi dire che Mittal corrompe me, cioè non è che Mittal corrompe te, capito, perché sei te, eccetera eccetera, però sicuramente ci sono molte accezioni del termine, anche di venduta ci sono molte accezioni del termine. Senti, qua, mi fanno segno che stiamo sforando, sono le 8, adesso dovrebbe essere l'ora della cena e magari abbiamo 5 minuti per una domanda, ma proprio così perché siamo andati abbastanza lunghi e forse anche un po' verbosi, però spero che fosse tutto, insomma. Quindi se qualcuno ha una domanda, un intervento, una curiosità, però c'è Barbara Boucher, dobbiamo lasciare 2 minuti 2 a Selene alla fine per raccontarci questa cosa su Barbara Boucher, quindi perché in realtà Barbara Boucher si spoglia nel film e si spoglia proprio tutta nuda, e il problema qual è? Che Barbara Boucher nel film si spoglia nuda, bellissima, affascinante, davanti a un minore, succede l'apocalisse e viene portata in tribunale per corruzione di minore. In tribunale, grandissimo colpo di scena, durante le riprese del film non c'era nessun bambino, c'era una persona affetta da nanismo, e quella persona chi era Domenico Semeraro, passato la storia come il nano di Termini, di cui si parla nel film di Matteo Garrone, L'imbalsamatore, che è una delle tante storie collaterali che in qualche modo costella questa storia tra realtà e film, che apre tutta una scena, una serie di link. Comunque Barbara Boucher è davvero strepitosa, bellissima, come Florinda Volkan, dunque non ha mai voluto far niente per questo film, ma nuda era proprio bellissima. Hai su YouTube per me. Questi sono aspetti secondari. Sì, è bello. Curiosità. Ecco il fatto. Gossip. Gossip è un processo per corruzione di minore a un film, e comunque. Cioè, è un che, insomma, che per capire l'epoca, il film stesso, il contesto in cui ti aveva, eccetera. Per dire, corruzione di minore era un classico reato che veniva appioppato a Pasolini, che ha subito diversi processi per corruzione di minore. E, se non c'è niente, grazie dell'attenzione. I due libri, Le cose innominabili. Pozzi e Le cose innominabili sono sul banchetto, qua c'è un giusto, se vi date domande ci vado, allora ci va alla cena. Dopo la cena ci sarà la presentazione triplice, che però non è la triplice sindacale, triplice appunto, la sinistra di destra di Mauro Vanetti, la buona educazione degli oppressi di Volpo Costi, Airbnb, Città Merce di Sara, Gamesport.